se volete la verità. Andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 mattino" di Alessandro Milan. Ciao carissimi, grande ragazzi. Oggi Juve 3 Real Madrid 1. 3-1 per la Juve. Ah, 3-1 per la Juve. Onorevole, ma lei? E l'ho mandato pure a Marotta il risultato. Battista, ma è vero che adesso per andare al governo vi mettete d'accordo con Salvini? Avevo fatto la legge elettorale. Che c'è? Ertedeschellum, mortacci posto. Di Battista, ma non c'entrate niente con Salvini, su cosa vi mettete d'accordo? Roma Laterona, ha commissa, sti negri non fanno un cazzo. Dice, aiutiamoli a casa loro. Ma dov'è casa loro? All'anima dei mortacci posto. No, basta! Onestà! Vabbè. Onestà! La legge elettorale. Proprio da mangiarsi i maroni, come sì. Lo chiama Travaglio in punta di metafora. Il merdinello. Il merdinello. C'è un proporzionale alla tedesca con un leggerissimo inchiappettamento all'italiana. E nel Movimento 5 Stelle non sono proprio tutti d'accordo. Sono, per esempio, la taverna non è tanto... Ma nel Movimento tutto viene stabilito dalla base, infatti il portavoce Grillo ha portato la voce e con voce tonante ha detto alla taverna. La senti questa voce? Va bene, va bene, va bene. Abbiamo capito. Il modello era la legge tedesca, ma adesso di tedesco non c'è rimasto nulla. Sì, sono partiti che ci hanno promesso Claudia Schiffer. Ma ci ritroveremo di nuovo con Rosy Bindi. Va bene, che c'è. Signori, Luca e Paolo la vedono così la situazione politica attuale. C'è anche uno straordinario Iena oggi. Sulla Stampa, a pagina 3, la vedi così invece. Ecco la nuova legge elettorale spiegata, da Iena. Ve la spiega Iena, alias Riccardo Barenghi, pagina 3 della Stampa. X più Y alla quarta diviso 3 meno 7 per 45 alla nona più 1. È la nuova legge elettorale. Risolvete e... Dai, avete 6 secondi però... Non ho capito niente. Caro presidente De Luca, non sei l'unico. Pare che anche Beppe Grillo, che ha dichiarato un paio di giorni fa della legge elettorale, stiamo facendo una legge elettorale che non capisce nessuno. E se lo dicono loro che sono i leader, poi ha fatto una parziale marcia indietro. Dicono che 2 giorni fa Beppe Grillo fosse sul punto di rompere l'accordo sulla legge elettorale perché c'era, come dire, c'è un'anima del Movimento 5 Stelle, un'anima dura, capeggiata da Paola Taverna, che vuole rompere, e poi dopo è rientrato un po' nei ranghi e quindi l'accordo tiene. Onestà. Sì, onestà, sono loro. Caro Presidente Luca, ci siamo, ormai la conduzione 4.0 è quasi fatta. Dai, quasi fatta. Amico mio, ma chi vuoi prendere in giro? Ho capito. Allora no, non è fatta. Mettiamoci d'accordo però. 13.000 euro netti al mese. Lo sapevo, sempre lì si va a finire. Sempre una questione di vil danaro. E firmiamolo questo contratto, direttore del personale, col presidente De Luca. 13.000. Baci e abbracci. Oh, è così, 13.000 euro al mese, netti, non è? È una cosa dignitosa. Siamo qua, sono le 6:34 minuti, c'è Lorenzo Nespoli in redazione, ti stavo chiamando Paolo Nespoli come l'astronauta. Si chiama l'astronauta Paolo Nespoli, non c'è mica Paolo Nespoli, l'astronauta. di Verano Brianza, dalle tue parti. Quindi, sei parente? No. I Nespoli vanno come le ciliegie a maggio, in Brianza. Allora, Lorenzo Nespoli, redazione, Peter Pescapè, regia, e 21 gradi e soleggiato a Perth, ci fa sapere Chiara, è riapparsa, 21 gradi a Perth, in Australia. A Malpensa, 11 gradi, Salvatore in partenza per Cancun. Che miseria, ragazzi. Vabbè. A Cernusco sul Naviglio, 14 gradi, cielo sereno. A Lucca, 16 gradi. A Cerveteri, 21 gradi. A Siena, 14 gradi, ci dice Mario, da 70 anni tifoso del Milan. Grande Mario! A Perugia, 19 gradi, cielo velato. Ad Adro, 15 gradi. Giornata che si profila spettacolo. Basta con la solita radio. Noi la Saluzzi la vogliamo vivere più social. Più social. Ecco, con la nuova stagione inizia a casa di Paola. Ecco, sì, avanti tutti quanti a buongiorno casa. Tutti avanti a casa di Paola. Porte aperte a casa di Paola Saluzzi. Assolutamente, il caffè è pronto per chi lo vuole. Grande, adesso grande. Adesso proseguiamo con i biscotti. Grande, Roma, 19 grande. Gradi, bel tempo, fa già caldo. Buongiorno Lino. Buongiorno Paola Saluzzi, buongiorno anche a Luca Dini, il nostro super mega dir. Quanti buongiorno, gradi a Milano? Paola. Inventa Luca, inventa. Quanti gradi? Qui in casa mia 19. Diciamo. 19, vive sì. 19 gradi. Insomma. Ok. Va bene. In casa. In casa, in casa. Fuori più o meno. E come esci? Siamo alla stessa temperatura. È cominciato Hannibal, è arrivato. È cominciato il caldazzo, il caldazzone di esatto. Hannibal, sì sì sì. Allora, siamo qui. Signori, in realtà io sono partito dalla legge elettorale, ma la mettiamo via la legge elettorale, tanto non ci capisce niente nessuno. Track. Barenghi ha sintetizzato. Track, la mettiamo lì a lato. No, posso dire solo una cosa? Sì. Non c'ho capito niente. No, non c'ho capito niente neanche io. Però io voglio dire, non si può giudicare una legge solo per chi ha detto sì. Sì. Cioè io capisco le riserve tutte, però non è che si può dire una cosa brutta perché l'abbiamo fatta insieme a Salvini. Insieme. No, cioè, siamo sempre lì che parliamo del votare le cose sul merito e non detto che il merito nessuno l'ha capito. Cioè si è capito una cosa che i leader di partito si prenderanno tutto il tempo necessario. Cioè non andiamo a votare un'idea di governo, votiamo delle liste, delle accozzaglie. E poi dopo, se si metteranno d'accordo lor signori, se troveranno un accordo, ci sarà un governo. Se no, no. Beh, però è quello che succede, diciamo, nella maggior parte dei paesi. Perché poi, voglio dire, i governi di larghe intese, guardiamoci così, in giro, non è che li abbiamo inventati noi. Comunque, ma forse quello che ha fatto sembrare la cosa più complicata è stato questo continuo... Attenzione, che io dico sempre, e fa benissimo di ricordarci il nostro super dir... è sinonimo di democrazia, cioè fare, smontare, poi cercare di rimontare, poi rismontare ancora. Ecco, questo forse ha messo un po' in confusione, però l'appunto è sinonimo di democrazia, ci siamo, respiriamo, siamo liberi. Siamo liberi, siamo liberi. Io poi vorrei dare una multa a chiunque usa Ellum, inventa una definizione tedeschellum, non se ne può più, basta. Infatti torniamo al mitico Kangurum. Lo chiameremo Dinellum, lo voglio chiamare Dinellum. Lo voglio chiamare. No, perché ieri non mi credevano, ma c'è stato anche il tempo del Kangurum, quando l'ho rispolverato. Qualcuno aveva guardato l'Australia e quindi Kangurum, perché l'Australianellum era brutto. Pensavo all'emendamento super canguro, tutte quelle c'è stato un momento breve in cui è comparso il Kangurum, il sistema elettorale. Australiano. Il Koalum, esatto. Chiamiamolo Caterinellum. Qui c'è Caterina. Caterina, come sta Caterina? Sta a posto? Sta bene. Un po' spelacchiatella per il caldo, ma sta un po' spelacchiata. Vabbè, ci saranno dei strappa di tutti i peli. Così, ma per così, cortesia, così. Milan, no, ma cosa dice Alino? No, così. Allora, diciamo che. Sono tempi invece un po' difficili su altri fronti. Abbiamo scoperto, oggi io non ho capito una cosa, due cose anzi. A, L'ultima teoria è questo: il terrorismo sarebbe colpa del web. Ah, questo dannato demone su cui si esercitano e si radicalizzano tutte queste persone che poi vanno a fare attentati. B. Perché tutti i titoli italiani, i titoli dei giornali italiani sono: l'Italia aveva segnalato l'italo marocchino che ha colpito a Londra. L'Italia aveva segnalato a Londra. Uno potrebbe anche titolare: l'Italia ha lasciato andare a Londra un potenziale terrorista. Ecco, sono sempre questioni di prospettive, per carità, di prospettive. Però il dato di fatto, caro Lucadini, è questo. Ci ritroviamo... Ah, poi c'è un'altra cosa sulla questione delle mani alzate. Io non ne posso più di vedere le foto, ma forse sbaglio io, di tutti noi occidentali, l'ultima Notre Dame con le mani alzate, no? Che a racca stappano, non champagne perché non possono, ma chinotto, e brindano. No, stappano anche lo champagne. Anche lo champagne, dici? No, non lo so, ho messo tante cose insieme. Comunque, il web, cominciamo dal web. Adesso c'è questa cosa, per cui il web è il demone, Luca, no? È colpa del web se si radicalizzano, se si... Ma guarda, questa è pura ignoranza. Cioè, il web è uno strumento che fa tanto bene e propaga anche le idee sbagliate. Poi le teste bacate... Non è che le crea internet, insomma è una posizione ignorante, voglio dire, è evidente che si trasmettono cose attraverso, poi è come dire, è colpa dell'emulazione, c'è, è evidente in tutti questi aspetti, però è come dire, allora non parliamo più degli attentati perché la gente li vede in TV e poi decide di farli anche lui. Ecco, esatto. No, ma è chiaro che sul web c'è molta propaganda, eccetera, però Paola, che dici? Però, mi chiedo scusa, entrando un po' più nello specifico, nel web c'è una propaganda che non viene immediatamente cancellata come dovrebbe essere. Si continua a parlare di questi algoritmi fasulli, evidentemente finora fasulli, perché ribadisco una cosa che dico da tempo: se vengo e vado alla comunione di Angelica e faccio un filmino e lo mando sul web con una musica e quella musica dice mi devi pagare i diritti, il mio filmino viene cancellato in un attimo. Sì. Allora, i diritti musicali sono immediatamente rispettati, non c'è l'algoritmo che eviti di far vedere le gole duzzate. O i palazzi che saltano per aria. Ma che ci sia un problema di propaganda? Questo è un errore del web. Non solo, aggiungo, 2001, Torri Gemelle, si prese la decisione, lo fecero anche a Londra, attenzione, molto più tardi con gli attentati alla metropolitana, di non diffondere una sola fotografia di persone con le mani alzate. E questo lo trovo giusto. Cioè, ma per carità, no, io sono l'ultima persona al mondo che vuol mettere bavagli, eccetera. Però ecco, vedere anche queste immagini. Non ti do la soddisfazione. Tutte queste immagini degli occidentali, perché parliamoci chiaro, dei nostri cittadini con le mani alzate, con le facce spaurite. Ma far capire a quello che ha la fretta di, cioè, tu vai al ristorante, la gente non mangia, fotografa i piatti e li condivide, ma mangiatelo prima che si fredda. No, è tutto un fotografo. Non è male questo paragone. Mangiavivelo. Mangiatelo, cioè, ma prima guarda è caldo, mangialo, no? E poi fai la foto. Ci vuole l'app che ti dà un ceffone. L'app che ti dà un ceffone. Vabbè. Come la mia mamma, mangia. Mangia! Pam, lo scappellotto dietro. Pam, mangia prima. Non c'è questo, non c'è un algoritmo che cancelli quella porcheria che continua ad andare. E che chiaramente se un tempo si dovevano incontrare in luoghi oscuri, c'era la carboneria, adesso si incontrano dove vogliono sul web. Allora questa è una regola che ancora non è scattata. In questo senso è super pericoloso, in questo senso dovrebbero fare qualcosa immediata. Ripeto, perché se io metto una canzone di qualsivoglia cantante... È vero, vieni subito bloccata. Seccata. Ci sono i diritti d'autore e i diritti di vita dove stanno? Comunque adesso ovviamente subito è partito, sono i giornalisti che diffondono, è brutta, vil razza dannata, caro Luca. Comunque se devo dire, una responsabilità c'è anche in questo, perché quando Paola parlava mi è venuto in mente anche quel ragazzo con lo zainetto a Torino che è stato subito crocefisso. Cioè non è nessuno. Ma guarda, io facciamo vedere. Ma no, io l'avevo pensato subito, ho detto: ma e se questo fosse lì a dire, ovviamente in maniera un po' a dire: state ma calmi. No, ma state calmi, dove correte? Certo che in quel momento la posa da kamikaze. Chi è che ha mai visto la posa del kamikaze? Sì, infatti. Cioè la tipica posa del kamikaze. No, per dire. La cara vecchia idea per cui finché non c'è una un sospetto, un'indagine, stai zitto, non fai vedere, non metti in pasto di tutti i video, le facce, i nomi. Certo, la verità è che anche questa ultima vicenda di questo italo-marocchino, fermato pare all'aeroporto di Bologna da un poliziotto che gli dice: ma perché lei va a Istanbul a fare il terrorista? Così ha risposto. Come, scusi? No, no, il turista, dai, dicevo il turista. E poi segnalato, questa cosa segnalato. Mm. Ma dove c'è una cooperazione? Cioè dobbiamo trovare un modo migliore per fermare. Siamo in un tempo in cui sono i terroristi della porta accanto e dobbiamo trovare un metodo per cercare di limitarne il più possibile i danni. Dobbiamo individuarli. Però non è un problema italiano, nel senso anche quello del Westminster Bridge era stato ripetutamente segnalato. Ma come no? Ma sono anche dei buchi legislativi. Ma un altro aveva una denuncia da 2 anni di una italiana a Londra che ha detto faceva discorsi strani sull'Islam, l'ho denunciato perché c'è il numero per denunciare le persone, ma poi se rimane un numero, se rimane una segnalazione. Ma evidentemente c'è un livello di, definiamola, da noi sarebbe burocrazia, anche se a noi dobbiamo fare in silenzio, ma tanti applausi, perché voglio dire, si lavora, si corre, si rincorre e si lavora in questo senso. Tu non puoi avere uno che è andato in onda mentre nel giardino sventola la bandiera dell'ISIS, il suo amico, lui si piega, prega, quella è una bandiera che tu devi rincorrere, non c'è storia. Infatti, nazisti che sono liberi, i neonazisti che sono liberi di ritrovarsi, di fare i loro raduni, di quello che non voglio definire. Va bene, queste persone vanno guardate a vista, ma dopo che li guardi non puoi guardarli e basta. Anche arrestarle, diciamolo di più, anche arrestarle. Dico Marty Feldman, io l'ho detto a quelli di quel video con la bandiera dell'ISIS, arrestiamoli e poi gli troviamo un reato, Hai ragione, però ci vuole una legge speciale, che non è una cosa bella da dire, però nei casi estremi è già successo, nei periodi di terrorismo si varano leggi Luca, speciali direttore, per cui ce lo ricordiamo tutti e tre per anagrafe noi quel periodo, magari eravamo sicuramente ragazzi, andavamo a scuola, ma ci sono stati momenti speciali nel nostro paese, nella nostra memoria, fotografati in bianco e nero, perché la televisione era ancora in bianco e nero, dove c'era terrorismo e col terrorismo sono state fatte leggi speciali. Questo cos'è? Ma vogliamo ancora accendere lumini appoggiati per terra, mettere fiori e far volare palloncini? Perché sinceramente no. Andiamo però al traffico, rientriamo tra un attimo, state con noi. La colazione dell'italiano: cappuccio, cornetto e traffico a volontà. Faircam Air & Ocean, spedizioni mare aereo in mani sicure e pratiche doganali risolte. Faircam.com vi presenta. Juventini, quando ci stanno le finali dei Champions, è meglio che stanno a casa. Altro che dice spugliatore, qua la trancia ci vuole, la trancia. Oh Milan, menare i più piccoli. Oh Alfano, vuoi la caramellina? Dai, non piangere più, vuoi il fazzolettino? Hai occupato più poltrone te che tutti i componenti del tuo partito? Povero, dai, vieni che ti do la buba. Hanno deciso che deve marcire in carcere e mi assumo assolutamente la responsabilità di questa mia definizione. Perché? Per me un ergastolo è un ergastolo, lui si può curare benissimo anche in carcere. Ma la nostra, per quello che vale, condanna la più radicale, dobbiamo riconoscere della possibilità di una morte dignitosa. Ma un paese che pensa di far uscire di galera Totò Riina, questo deve marcire in galera. Marcire in galera è la frase più gettonata e tutti che si pronunciano su Totò Riina, che tra l'altro, detto così per inciso, da 2 anni non sta in carcere, questo ve lo dico, sta in un ospedale dove è curato. Io non lo so, non capisco il senso di questa polemica. In Italia si fa polemica su tutto. Beh, per me è giusto, cioè, dire che ognuno ha diritto alla morte dignitosa è una cosa talmente banale, dovrebbe essere banale in un paese civile. Tutti chi è in carcere ha diritto per un ergastolo, vari ergastoli come Rina, secondo me ha diritto a una morte dignitosa, curato in carcere, nelle strutture ospedaliere carcerarie, e chi non è in carcere ha diritto a una morte dignitosa, anche la vecchiettina di 85 anni che magari chiede una morte dignitosa allo Stato potrebbe aver diritto a una morte dignitosa, o non lo so Luca, o sbaglio. Sicuramente è così, quello che ho sostenuto io in questi giorni, si può e si dovrebbe poter morire dignitosamente anche nelle strutture carcerarie, ospedaliere, come dici tu. Ma certo, ma infatti è curato in ospedale, è da due anni in ospedale, è curato. La limitazione della libertà secondo me deve perdurare, perché è giusto e non deve essere una negazione della dignità. Così come il carcere non dovrebbe essere una negazione della dignità, mi fa specie che se ne parli solo per Rina e non per tutti i piccoli ladri di polli che magari muoiono. Sì, ma ho anche le persone che chiedono la morte dignitosa, adesso non vorrei anche chi non è in carcere non ha fatto niente. Esatto, certo. e magari altro tipo di morte dignitosa per la quale ci sono sdegni, scandali. Però insomma, Paola, sono temi che affronterai anche tu questi? Ieri abbiamo avuto per una lunga mezz'ora che per me è volata, l'avrei voluto per un'ora. Salvatore Borsellino. Certo. Mi sembra di aver riconosciuto la voce di Rita Dalla Chiesa adesso, poco fa. Parlano loro. C'era anche lei. Io credo che siano loro a dover parlare. Sì, e invece sai i politici. Tu... No, attenzione, no, per carità, parla anche la politica e tutto. Ma però sì, focalizzare l'attenzione su quello che queste persone, che hanno perfettamente compreso la decisione della Corte, ma su quello che queste persone ci dicono, sempre per rinnovare la memoria. Rita Dalla Chiesa ha fatto su Twitter, a proposito di uso dei social, ha messo una foto che comprendeva tantissime piccole foto e ha scritto loro ringraziano per questa decisione, e tra tutte quelle foto, oltre all'immagine di suo padre, oltre a Giovanni Falcone, oltre a Paolo Borsellino, c'erano tanti volti. Io sto leggendo in questi giorni, in queste ore, e lo suggerisco come lettura, perché è giusto leggere questi libri. Pietro Grasso, Storie di sangue, amici e fantasmi, ricordi di mafia, perché se li leggi tutti quanti, se leggi quello che è stato, ti rendi conto della quantità di sangue che corre ancora per le strade del nostro paese, come se non si fosse mai fermato. Bisogna proprio vederlo visivamente. Chiaro. E dopo si può parlare di questa storia. Sì, e ribadiamo quanto avete detto voi. In un ospedale non si sta morendo di carcere, si sta morendo per malattia. Esatto, in un ospedale, 84 anni, ha un tumore, è curato, è in ospedale, quindi voglio dire, non è che... Il mio caro papà è morto dignitosamente in un ospedale pochi mesi fa. Non voglio parlare di te, Alessandro, sto zitta. Certo. No? La morte dignitosa. Allora, però bisogna andare a studiare la storia. E diciamo che a Totorina... non è andata neanche male. Sì, ma poi anche quelli che dicono, stanno scrivendo in questo momento, ma i morti di mafia invece hanno avuto una morte dignitosa? Ovvio che no, però non la vorrei porre su questo piano, perché sennò apre il piano e l'idea di una possibile vendetta, cosa che non deve mai essere. Non è che siccome i morti di mafia non hanno avuto una morte dignitosa, bisogna... Non è vendetta, è giustizia, è diverso. No, sta in carcere, viene curato, viene gestito, la giustizia che non comprende la pietà, che è una cosa umana e diversa. La giustizia è la giustizia. La giustizia. In ogni caso, io qui davanti, Vanity Fair. Però si mantiene in forma. La conosci. Shakira la conosce. Credo. È quasi una tua coetanea. Eccolo lì. Vabbè. Insomma, è coetanea. Che cosa dire sulle coetanee? Ma non lo so. A parte, fantastiche, l'età migliore è 50 anni. Da 50 anni si sa, le donne fioriscono a 50 anni. Sì? Perché? Cioè, cosa c'entra? Tu ne avrai 38. No, è tutto vero. Ti occuperai di questa cosa da più avanti. So. Va bene, insomma, abbiamo Vanity Fair con Shakira in copertina. E così io vi devo salutare. Vi ricordo Paola Saluzzi alle 10 ovviamente su Sky. Luca Dini. E alla prossima, settimana prossima sono via una settimana e quindi non vi sveglierò.